Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Oggi parleremo delle avventure di Peter Pan, un film del 1953, ed è il 14° classico Disney. La storia è ispirata dall'opera teatrale omonima di Barney, che Disney aveva molto apprezzato e che aveva da tempo pensato di creare una trasposizione cinematografica. Riuscirà nel suo intento solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, per i vari problemi che la guerra aveva causato, col taglio di personale. E soprattutto questo film verrà supervisionato dai famosi Nine Old Men, che prenderanno in mano gli studios a partire dagli anni 50. Questo inoltre sarà l'ultimo film supervisionato da tutti i Nine Old Men insieme, perché fra di loro ci saranno alcune incongruenze a livello lavorativo, perché c'erano molte rivalità. La storia è ambientata, inizialmente, nella Londra di fine Ottocento e vede un'interessante contrapposizione di ambienti. Primo su tutti la presenza dell'isola che non c'è, dove Peter Pan, questo bambino che non cresce mai, porta i tre fratelli, tra cui Wendy, la protagonista, insieme alla sua fatina Trilli. In quest'isola che non c'è, Peter Pan e i suoi amici incontreranno vari personaggi, tra cui gli insidiosi pirati capitanati da Capitan Uncino. La maestria da parte degli animatori e dei registi, tra cui annoverano nomi molto importanti per gli studios, tra cui Milt Cole e Mark Davis, è stata quella di aver creato un'atmosfera fantastica e sognante, inserendo personaggi di comic relief come Spugna oppure la fatina Trilli, che sarà proprio un elemento iconico, anche perché ricordava l'attrice Marilyn Monroe, anche se l'ispirazione era un'altra, però comunque il suo stile e le sue caratteristiche ricordavano insomma quel filone lì, anche perché gli anni 50 insomma era molto famosa. Perciò l'insieme di tutti questi elementi ha reso il film molto molto amato dal pubblico, sia dal pubblico più piccolo che dai genitori o il pubblico più grande, tant'è che il film è stato riedito più volte. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.